Fu per lei uno shock, una sorpresa immensa e devastante scoprire che in realtà lui era già felice. Sbigottita, trascorse la giornata camminando a lungo avanti e indietro per il giardino, meditando su quella rivelazione. Eppure mi iniziò, poi si fermò. Ma l'amava davvero? Qual era il beneficio di continuare a ripeterselo se tanto era evidente che non era così? Possibile che per lui e forse anche per gli altri mariti si sentiva così ignorante in materia, ogni aspetto della vita fosse vincolato alla questione della maternità? Era vero allora quello che lui le aveva detto un giorno, e cioè che un marito e una moglie non avrebbero mai potuto essere amici? Eppure lei sapeva bene di poter amare Robert, di amarlo con tenerezza e profondità anche senza essere perennemente in procinto di diventare madre. Forse le mogli riuscivano a tener viva l'amicizia nei confronti dei mariti, cosa che a questi ultimi risultava impossibile. Desiderò avere una più ampia cultura al riguardo. C'era qualcosa che le sfuggiva e lei nacque il sospetto, mentre camminava per il giardino bagnato di pioggia autunnale, che essere la figlia di un vescovo fosse un presupposto insufficiente per affrontare il matrimonio. Gli anni trascorsi in famiglia le avevano ottenebrato la mente. In case come quella si veniva addestrati a distogliere lo sguardo e se proprio si desiderava vedere, bisognava comportarsi in modo furtivo e sbirciare la vita oltre il margine del libro delle preghiere, che ti faceva sentire immorale senza offrire alcuna visuale di sorta. Ogni figlia di vescovo, si disse, misurando il giardino con un furioso trapestio, quando si accostava a quegli argomenti i suoi pensieri diventavano tumultuosi, dovrebbe rimanere zitella e se proprio non ci riusciva, come avrebbe detto San Paolo, avrebbe perlomeno dovuto sposare un altro vescovo. Non un curato, né un parroco, né tantomeno un inafferrabile ed evasivo individuo come un pastore della Chiesa luterana. Solo ed esclusivamente un vescovo. Un tipo di persona a cui fosse già abituata. Qualcuno che fosse in grado di comprendere, un garante della continuità, un successore, un uomo in tonaca, un semplice curato, infatti, avrebbe potuto incorrere in qualche attimo convulso, destando preoccupazioni in un'anima pura come quella della figlia di un vescovo, un'anima sbiancata perché tenuta lontana dalla luce, proprio come un sedano, anche se non più bianca di quella di qualsiasi altra ragazza se lasciata a se stessa. Una luce impossibilitata a illuminarla per via dell'onnipresente ombra episcopale. Persino un parroco avrebbe potuto costituire una scelta avventata, quanto a un pastore della chiesa luterana e sconsolata alzò le braccia al cielo. Beh, Robert non era di certo un uomo avventato, nessuno avrebbe potuto accusarlo di nulla se non di avanzare un passo dopo l'altro nella più stabile delle sequenze. Eppure, pensò Ingeborg, sprovvista della chiave di lettura per la condotta del marito, in quel frangente egli le appariva incomprensibile. Animata dalla fede semplice di ogni donna, quella fede che resiste ostinata a ogni raziocinante spiegazione e di cui l'ingenua mole e la vanità, non solo aveva creduto fermamente che ogni ammirata e sdolcinata rassicurazione da lui pronunciata sarebbe stata valida all'infinito, ma si era anche illusa di conoscerlo e di comprenderlo anche meglio di quanto potesse fare lui stesso, convinta che in qualsiasi momento l'avesse desiderato. Le sarebbe semplicemente bastato allungare una mano per servirsi senza tanti complimenti di un'ulteriore porzione di amore. Ingeborg aveva sempre pensato a questa fede nei suoi poteri, alla malìa che sapeva di esercitare, come a un modo di riporre fiducia in lui. Furono necessarie 6 settimane di imperterrita indifferenza da parte di Herr Dremmel, di placida refrattarietà a ogni suo affettuoso approccio, di infervorata propensione al lavoro, più infervorata di quanto avesse mai mostrato sino a quel momento, affinché la verità si riversasse su di lei in tutta la sua portata. La rivelazione la lasciò esterrefatta. Suo marito era innegabilmente felice, e felice senza di lei. E quello, disse Ingeborg, incapace di astenersi dal cogliere l'inevitabile conclusione, non è di certo amore. Si arrestò per un attimo sotto gli alberi zuppi di pioggia, togliendosi il berretto di lana e scuotendolo per liberarlo dalle gocce, dato che inavvertitamente aveva sfiorato un ramo sporgente ancora pieno di fradici e foglie estive. Estrasse il fazzoletto di tasca e pensosamente prese a frizionare il berretto. Aveva piovuto per tutta la mattina e ora nel tardo pomeriggio il giardino era un limbo di grigiore. Foglie caduche e buio incombente movimentato da occasionali scrosci d'acqua provenienti dagli alberi, quando qualche uccello silenzioso si appollaiava sui rami. Mentre asciugava il berretto, alcune gocce le caddero sui capelli. Alzando il braccio, prese a tamponare anche quelle con gesti meccanici. E ancora strofinava, assorta nei suoi pensieri, anche quando cappello e capelli erano asciutti già da un bel pezzo. Non ho idea di che cosa sia, disse poco dopo, quasi a voce alta. Ma so per certo che cosa non è. Indossò di nuovo il berretto, tirandolo con attenzione fin sopra l'orecchia con entrambe le mani e osservando al contempo una lumaca che si strascinava sul sentiero davanti a lei. E ciò che non è, si disse dopo un altro breve intervallo, scuotendo il capo mentre il suo viso si componeva in un'espressione di profonda negazione, è amore. Accidenti, aggiunse tra sé profondamente sgomenta. Poi, in un lampo di intuito, cercò una spiegazione. È perché lavora tanto. E ancora con il desiderio improvviso di ricucire la ferita inferta alla sua vanità che tanto bruciava, pensò. Eppure se la sua mente non si smarrisse sempre nei meandri del lavoro, si ricorderebbe di amarmi. Il motivo è solo quello, se ne dimentica. Poi, compiendo un'analisi spassionata, del resto è un individuo di gran lunga superiore a me, concentrato su problemi più elevati. E ancora seguendo il filo di quei pensieri, con l'usuale volontà di compiacere. Perciò sta a me far sì che possa continuare a occuparsene in santa pace. E mentre l'esito di tali riflessioni le stritolava il cuore con una mano di ghiaccio, aggiunse: Eppure è felice. Indi, ma io allora che parte ho in tutto questo? Non ne ho nessuna, si rispose, accettando la verità con grande rassegnazione e franchezza. Infine, sull'onda di un'impetuosa e indignata onestà si chiese: E perché mai dovrei avere una parte? Che cos'è questa storia di avere a tutti i costi una parte? Oh. E così dicendo, pestò un piede a terra. L'unico motivo per cui mi sono liberata di tutti quegli assurdi abiti era il mio desiderio di renderlo felice, al di là del fatto che ne fossi in grado o meno. Ma realizzando quel desiderio, in ultima analisi, volevo solo compiacere me stessa. Quindi io non sono altro che. Girandosi sui tacchi e allargando sconsolatamente le braccia in cerca dell'espressione più azzeccata, portò a termine quella considerazione dicendosi: Non sono altro che un egoista. Per l'ora del tè, il suo stato d'animo poteva essere definito, sebbene in modo imperfetto, alquanto depresso. Capitolo 25. Pur tentando di analizzare con lealtà e coraggio tutta la vicenda, aiutata dall'indignazione per il suo egoismo, Ingeborg avvertiva attorno a sé una grande forza di vuoto, un gelo diffuso. Le riusciva difficile accettare la tremenda portata di quella rivelazione, così sbalorditiva dopo 7 anni in cui si era crogiolata nella certezza di essere amata, e ancor più sbalorditiva se rammentava che solo ad agosto, che era possibile contare ogni singolo giorno trascorso, il suo ritorno a casa dopo un periodo di assenza aveva estratto da Robert una quantità considerevole di manifestazioni a riprova di quell'amore. Ciò che stava accadendo aveva la stessa subitaneità e totalità di una luce che venisse spenta all'improvviso. Un attimo prima si sentiva immersa nel più intenso, abbaccinante bagliore, un attimo dopo brancolava nel buio, disperatamente, in cerca di spiegazioni. Le sembrava incredibile che tutta l'importanza e l'interesse destati dalla sua persona in un altro essere umano dipendessero unicamente dal ricalcare o meno il modello corrispondente alla definizione di vera moglie. Tutto sommato preferiva brancolare nel buio piuttosto che accettare quella spiegazione. Si era sentita così sicura con lui, a suo agio e fiduciosa. Quando pensava alla giovinezza trascorsa nella casa paterna, all'indegna paura che le incuteva il padre, a come accanto a lui si considerasse una nullità, capiva che l'amore e l'apprezzamento di Robert avevano compiuto il miracolo di affrancarla dalla condizione di essere strisciante, elevando la creatura con poderose e splendide ali. All'improvviso, lui era piombato nella sua vita e le aveva detto che era una Süßes Kleines. E guarda un po', lei lo era diventata all'istante. Ma ora di certo non nutriva più la stessa opinione nei suoi confronti. Ora le sue mani rassicuranti stavano allentando la salda presa su di lei, ricacciandola nel vecchio ruolo di donna in soggezione verso l'uomo di casa. Si dedicò allora con rinnovato zelo alla cura dei bambini, alla gestione della casa e alla ricerca di opere di carità da compiere in seno alla parrocchia, così da non perdere troppo tempo mentre si sforzava di schiarirsi le idee. Se non poteva rendersi utile al marito in alcun modo, si sarebbe dedicata a coloro che erano meno indipendenti di lui. Quell'uomo frangente si rivelava improntato alla totale umiltà. Ingeborg, infatti, avrebbe provato gratitudine persino nei confronti di un cane se fosse stato tanto condiscendente da mettersi a scodinzolare in sua presenza. Durante i periodi di infermità dovute alle gravidanze, si era ripromesso una volta tornata in salute di aiutare il prossimo. Ora che finalmente guarita si era alzata dal letto, si ritrovava con due figli da sempre costretti a una scarsa presenza materna, due domestiche la cui vita poteva forse essere resa più interessante, un intero villaggio poco oltre il cancello ove far pratiche nate di misericordia e smisurati spazi di tempo da riempire nel modo che più le aggradava. Come in una resurrezione troppo a lungo procrastinata, però, il vuoto nella vita delle persone che la circondavano era già stato colmato. Ognuno sembrava ben avviato in un'esistenza nella quale lei non compariva e le visite di cortesia ai conoscenti, così scontate per una persona allevata a Redchester, sembravano sconosciute nella Prussia orientale. La moglie di un pastore aveva infinite incombenze domestiche da sbrigare, tante quante potesse sobbarcarsene un fisico femminile nell'arco di una giornata. Nessuno quindi si aspettava di vederla peregrinare per le case a consolare e alleviare la gente. Oltretutto, i contadini si chiedevano per quale motivo lei avrebbe mai dovuto consolarli e alleviarli. Le differenze sociali tra un contadino e un pastore erano talmente trascurabili, sostanziandosi spesso in appena un po' più di istruzione da parte di quest'ultimo, che sarebbe apparso altrettanto naturale se la moglie di un contadino si fosse recata presso la canonica a portare consolazione e conforto. A Kirkense, chi poteva mai andare in cerca di solidarietà? Di certo non gli uomini e le donne erano troppo oberate dagli affanni familiari e da una lunga serie di onerosi doveri. Peraltro l'unica cosa che le tenesse vive e interessate è per trovare tempo per le consolazioni. E quelle tra loro oberate da più preoccupazioni, maggiori afflizioni familiari e motivi di tristezza e sfinimento, e alle quali morivano più figli, acquisivano proprio per via di questi fattori più importanza e popolarità all'interno della comunità locale che non le più benestanti. Anche Ingeborg raggiunse per un periodo lo zenit della popolarità, quando i suoi figli presero ad annegare cadendo dal barchino o a morire di orecchioni oppure ancora a nascere morti. Ma ora che non le accadeva niente di eclatante e che se ne andava in giro dopo 6 gravidanze con quel suo personalino ancora ben dritto e slanciato, Kirkense iniziò a guardarla con freddezza e sfiducia. Finché era rimasta inerme sul divano, infagottata in un abito nero informe, veniva rispettata. Ora, snella e desiderosa di rendersi utile, non piaceva a nessuno. Quando iniziò a girare nel villaggio cercando di coinvolgere le donne nell'organizzazione di momenti di incontro che avrebbero rallegrato la comunità parrocchiale una volta ogni 2 settimane durante i mesi invernali, esse scuotevano la testa china sul lavatoio e non appena lei si era allontanata, parlottavano tra loro, ascrivendo la colpa di certi suoi sghiribizi all'avere 2 domestiche. Ogni Hausfrau che non sbrigasse i lavori di casa con le proprie mani, si dissero, scuotendo il capo con disapprovazione e producendo molti ya, era senza dubbio destinata a cacciarsi nei guai. Alla moglie del pastore non chiedevano altro che di badare ai fatti suoi, come loro badavano ai propri. E se nessuno invadeva il suo salotto, perché mai lei avrebbe dovuto invadere il loro? Inoltre, non avendo nessun desiderio di rallegrare il suo inverno, non capivano per quale motivo Ingeborg si fosse messa in testa di rallegrare il loro. Tutte convennero che avrebbe dovuto prendere esempio dal marito, che non andava mai a trovare nessuno. In effetti, una donna che teneva a servizio ben 2 domestiche e che dopo la nascita di 6 figli indossava sottane più corte di quelle di una cresimanda, chia das Comtafon. Il vuoto creato dalla sua assenza era stato colmato anche a casa. Rosa e la cuoca si erano abituate a fare da sole, convinte che Frau Pastor fosse già mezza morta e che il suo destino fosse giacere sul divano. Oramai guardavano le sue apparizioni in cucina con disagio e inquietudine, quasi si trattasse della visione di uno spettro. Ai loro occhi, lontana dalla sua camera e dal suo brodo di carne, quella presenza non sembrava reale. Non riuscivano a lavorare con lei, sobbalzavano per lo spavento ogni volta che sollevando lo sguardo la vedevano materializzarsi all'improvviso, dopo essere sopraggiunta in cucina silenziosamente, con quella sua strana levità di movimento. Vederla mescolare le patate sul fuoco, pesare la carne e sbucciar cipolle con tanta naturalezza dava loro la pelle d'oca, come se fosse avvenuto un macabro miracolo. Rosa, a mezza voce, Disse che l'essere obbligata a preparare la cena e a rifare i letti con l'aiuto di fianco a fianco con. Insomma, con che cosa? Chiese la cuoca, fingendosi coraggiosa, ma contagiata a sua volta dall'espressione inorridita di Rosa. Mit einem Lazarus, mormorò Rosa, la bocca aperta per metà con la mano. La cuoca lanciò un grido strozzato. Le due domestiche comunque non diedero il preavviso, essendo brave donne e preparate a sopportar molto, sino a che non videro il loro nome vergato in inchiostro rosso dentro a uno dei riquadri tirati a righello su un foglio di carta che Frau Pastor aveva fissato con uno spillo alla parete del salotto, ben in vista sopra lo scrittoio. Per un giorno o due furono colme di indicibile orrore a causa del colore dell'inchiostro, poi, quando scoprirono il significato dei numeri 3 e 4 all'estremità del riquadro, l'orrore fu spazzato via dall'indignazione. Trattandosi dell'ora pomeridiana che erano solite trascorrere insieme, rammendando, lavorando a maglio e spettegolando. Dal prospetto, infatti, si poteva evincere che durante quell'ora Frau Pastor aveva intenzione di raggiungerle e sedersi accanto a loro per leggere a voce alta. I bei libri sono così, così, così belli, disse Ingeborg spiegando la sua idea. No? Non pensate vi piacerà la lettura di un bel libro? Aggiunse, ritrovandosi a incespicare un poco con le parole a causa dell'espressione sui loro visi. Non dobbiamo scordare il maiale, le ricordò la cuoca con la disperazione nella voce. Il maiale? E bisogna dargli da mangiare tra le 3 e le 4. Oh, ma il nostro programma non include anche il maiale, la informò Ingeborg con una vivacità un po' forzata. Il giorno seguente diedero il preavviso. Prospetto affisso in salotto, comunque a parte quell'ora, non aveva nulla a che fare con Rosa e la cuoca. Era stato steso a unico beneficio di Robert Letty Ditti. Ingeborg ci aveva meditato sopra per giorni, tirando linee precise con un righello e scrivendo le parole principali con l'inchiostro rosso, i capelli scarmigliati per la fatica e la concentrazione e le guance accese. L'inverno incombeva e piogge e burrasche rendevano impossibile svolgere altre attività all'aperto, in aggiunta alla coraggiosa uscita giornaliera dopo pranzo con i bambini, indossando mantelle e galosce. Ingeborg aveva pensato che con un po' di ingegno e fantasia avrebbe potuto trovare il modo di accorciare e illuminare i lunghi mesi che ancora li separavano dalla primavera. I bambini erano incredibilmente passivi e sembravano a malapena accorgersi del mondo che li circondava. Possibile non capissero che si sarebbero divertiti molto di più se avessero imparato a osservare ciò che accadeva attorno a loro. È vero. Assomigliavano parecchio a Frau Dremmel, ma ovviamente era una somiglianza solo superficiale. Ingeborg attribuiva tanta apatia alla scarsa presenza materna negli anni della crescita. Era riuscita a insegnar loro giusto le preghiere della sera e quelle di ringraziamento in occasione dei pasti, e poi aveva dovuto affidare i figli alle mani di Dio. Ora, comunque, poteva finalmente rimpossessarsi del suo ruolo ed educare le discipline che li avrebbero trasformati in bambini svegli, agili e allegri. Ma che cosa esattamente avrebbe reso Robert Letty Ditti svegli, agili e allegri? Ingeborg meditò a lungo, tentando di fornire una risposta a quell'interrogativo, e la trovò solo dopo parecchio tempo, quando ormai lei era tutta imbrattata di inchiostro rosso. L'estremità della penna completamente mordicchiata e il pavimento costellato di innumerevoli prospetti errati e accartocciati. Alla fine dell'inverno, però, si accorse che la soluzione trovata non era del tipo giusto. Evidentemente c'era qualcosa che non andava con il metodo scelto per l'istruzione dei suoi figli. Questi si erano mostrati infinitamente pazienti nei confronti della madre. Eppure, al termine del primo ciclo di lezioni previsto nel prospetto, per espletare il quale si era reso necessario tutto l'inverno, i figli erano solamente in grado di compitare le parole cane e gatto, e l'unica dimostrazione di interesse a cui diedero prova dopo 6 mesi di sforzi materni nell'imparare quelle fondamentali nozioni preliminari, fu una blanda meraviglia che persino i nomi di bestie così familiari necessitassero di una compitazione. Un'ulteriore delusione per Ingeborg poi si rivelò il suo fallimento nell'apprezzare ai figli le meraviglie dei corpi celesti. Insistere per sospingerli all'aperto nelle notti più chiare, quando tutto il cielo reluceva di stelle, si rivelò per la madre uno sforzo vano. E nel tramonto, quel fenomeno che trasformava il pallido cielo invernale in una grotta di sfolgoranti colori, i bambini non riuscivano a vedere nulla se non il segno che era ora di cena. Non una sola volta riuscì a indurli a provare un brivido per l'incanto del firmamento stellato, per il grande, infinito spazio sovrastante. Robert e Letty Ditti non facevano una piega di fronte alla spiegazione che il pianeta su cui vivevano si muovesse nello spazio a una velocità considerevole e la nozione che la Luna si trovasse a una distanza di miglia e miglia li lasciava del tutto indifferenti. Durante le lezioni di ginnastica era Ingeborg ad acquistare agilità e le sessioni di conversazione in lingua inglese e tedesca, a causa dell'assenza da parte di Robert Letty Ditty di qualsiasi apporto che giovasse al dialogo, si limitavano a un mero monologo. Per quanto riguardava poi il corso intitolato Introduzione agli insetti da collezionare, quella che catturava le mosche era sempre Ingeborg. I bambini comunque si comportavano molto bene, nulla poteva alterare quel dato di fatto. Se la madre, nonostante il poco interesse dimostrato dagli allievi, continuava a presenziare le lezioni indomita e caparbia, così pure facevano loro. Quando fuori di casa li prendeva a palle di neve, essi si trasformavano in pazienti bersagli in attesa che avesse finito. Ingeborg mostrò loro come fare un pupazzo di neve ed essi l'ascoltarono senza lamentarsi, quando per Natale donò loro degli slittini, ragguagliandoli sul divertimento che era possibile trarre da quegli oggetti facendoli scivolare giù per i pendii. Essi, ruzzolando a terra, non se ne ebbero male. I sentieri che preferivano, però, erano quelli pianeggiati del giardino, dove tiravano una slitta a turno trasportandosi a vicenda, mentre Ingeborg, cavalcando impavida l'altra slitta sdraiata faccia in giù e scomparendo oltre il profilo del pendio in direzione del lago ghiacciato, compiva quel genere di acrobazie che i figli si erano oramai abituati ad aspettarsi da lei. Uff, com'è difficile! Pensava talvolta Ingeborg, vedendo che l'inverno si trascinava rilento. Si ritrovava lì, la testa stipata di nozioni sulle mosche, sui corpi celesti e sulle distanze siderali che acquisiva di sera durante le ore di preparazione, studiando sull'Enciclopedia Britannica ordinata a Londra a tale scopo. La canonica pareva gemere e scricchiolare sotto quel peso, e desiderosa di trasmettere tale sapere, ma non riuscendovi, poiché i recipienti che avrebbero dovuto accoglierlo erano muniti di impenetrabili coperchi. Anzi, aveva l'impressione che quei coperchi tendessero a sigillarsi sempre più, così come inesorabilmente, le loro bocche. L'ora che chiudeva la giornata, che sul prospetto recava il titolo Affettuosità, un'ora che Ingeborg aveva creduto potesse divenire preziosa, un dolce interludio che sui figli avrebbero ricordato per lunghi anni, interludio che si figurava pregno di calda vicinanza, di baci e di chiacchiere sugli angeli, nonché sui modi più veloci per volare in paradiso, con Robert che le sedeva in grembo il lunedì, mercoledì e venerdì, e Ditti il martedì, giovedì e sabato, essendovi scarsità di grembo, si rivelò fin dall'inizio un'ora di semisonnolenza, di osservazione con aria torbida dei bagliori all'interno della stufa e di riposo da parte dei bambini, trascorse in attesa di conoscere la prossima cosa che la mamma avrebbe detto o fatto. In quell'ora Ingeborg era sempre piuttosto incline a lasciarsi prendere dallo sconforto. Era l'ultima giornata dedicata ai bambini della settimana, una giornata particolarmente lunga, eppure vi erano tutti gli ingredienti giusti, il fuoco acceso, il grembo, le ginocchia della madre, nonché quest'ultima pronta a baciare, a ricevere le loro confidenze, ancora di più a confidare a sua volta tutte le scoperte da lei effettuate nelle regioni della scienza. Ciononostante, non accadeva nulla. Robert e Letty Ditty, attraverso lo sportello aperto, guardavano con fissità il fuoco che paluginava nella pancia della stufa, oppure in alternativa Ingeborg stessa, ma in entrambi i casi nel più assoluto silenzio. A che cosa state pensando? Talvolta chiedeva loro, interrompendo quei loro sogni inanimati, quella loro beata assenza di riflessione. E loro all'unisono rispondevano: a niente. Su, ditemi la verità. Come si può non pensare proprio a nulla? È impossibile! Anche il niente, pensava sforzandosi di farsi capire. Deve pure essere fatto di qualcosa. Ma quando la domanda stessa fu posta la volta successiva, di nuovo i bambini con lo stesso tono di voce monocorde di poco prima risposero: a niente. A volte la saliva il dubbio che la presenza materna a cui erano sottoposti fosse eccessiva. Anche questo accadeva generalmente nell'ora dedicata alle affettuosità. Una madre, disse pensando a voce alta mentre con le braccia circondava entrambi i figli come prescriveva il programma, è spesso una seccatura. Così dicendo e provando una nuova sensazione di solidarietà nei confronti della figlia, abbassò lo sguardo sulla testolina reclinata sulla propria spalla come previsto nel prospetto. Specialmente se è una madre devota. Poggiò la guancia contro i capelli scuri e lisci della figlia, divisi da una scriminatura al centro della testa e raccolti in due codini, pensando a quanto fossero diversi dalla zazzera chiara e fitta di Robert e dai suoi, e quanto invece simili a quelli dell'anziana Frau Dremmel. Una madre devota, proseguì Ingeborg rivolgendosi a se stessa, anche i suoi occhi ora catturati dal baluginio della stufa e la guancia che sfiorava come una carezza la testa di Ditti. Ecco lei che impiega tutto il proprio tempo per tentare di rendere i propri figli diversi dagli altri. E io sono una madre devota, aggiunse dopo una pausa in cui si era fatto un esame di coscienza. Che cosa terribile, però, pensò poi, ravvedendosi. Indy iniziò a stampare lievi baci sulla testa di Ditti. Come deve essere terribile essere in potere di qualcuno di diverso da noi, di qualcuno svelto, se non siamo svelti, oppure lento, se non lo siamo. È comunque vecchio, molto più vecchio di noi, e dover diventare individuo a sua immagine e somiglianza. Piacerebbe forse a me essere in potere di mia suocera, con anni e anni a sua disposizione per forgiarmi e forzarmi a diventare ciò che lei ritenesse io dovrei essere? E naturalmente quello che dovrei essere sarebbe una coppia pesata di ciò che è lei, o di ciò che si sforza di diventare, ma certo, nessuno riesce mai a vedere oltre se stesso. Strinse i bambini ancora più forte a sé. Poveri piccoli, esclamò a voce alta, percorsa dall'improvvisa visione di che cosa dovesse significare fronteggiare una persona così fondamentalmente aliena per un intero inverno. Indy baciò un figlio dopo l'altro, tenendo i loro visi stretti al suo con le mani in un'apoteosi di ammenda. Persino di fronte a quell'esclamazione, inusuale nel genere, articolata con voce nuova, essi non proferivano verbo, ma si accinsero ad attendere con pazienza ciò che la madre avrebbe senza dubbio detto o fatto di lì a poco. Capitolo 26. Ciò che accadde in seguito fu che i bambini andarono a scuola. Proprio quando Ingeborg stava iniziando a porsi timidi interrogativi da persona rispettosa qual era sui reali valori dell'istruzione e sulle rivendicazioni del libero insegnamento, lo Stato si fece avanti togliendo Robert e Teditti alla custodia materna per inglobarli nel suo efficiente sistema scolastico. In un baleno, o perlomeno così le sembrava pensandoci in retrospettiva, quando si ritrovò nella casa vuota con nulla da fare se non cancellare le tracce del passaggio dei figli, si ritrovò come orbata. «Non mi avevi detto che succede anche questo alle madri?» mormorò in tono lamentoso a Herr Dremmel, il giorno in cui ricevette la laconica ingiunzione da parte dell'ispettore capo per la scuola. Herr Dremmel, irritato per il fatto di essersi dimenticato dei suoi doveri civici e parentali, ancor più irritato, essendo in aprile, mese in cui i campi richiedevano tutta la sua attenzione, non meno di un neonato o di una ragazza che si desideri sposare per amore, per l'esistenza di doveri civili e parentali ai quali era obbligatorio ottemperare, si rivolse a lei in tono sgarbato. «Ogni tedesco di 6 anni deve ricevere un'istruzione», pontificò. Ma Robert e Teditti stanno già ricevendo un'istruzione, rispose Ingeborg, con la mente ancora gravata dal peso di tutto ciò che aveva dovuto studiare a sua volta. Egli la liquidò con un gesto della mano. Ma Robert, sono i miei bambini. Ci deve pure essere un modo per educarli che non comporti il portarmeli via. Di nuovo la liquidò con un gesto della mano, non mostrando a quel proposito il minimo tentennamento. I bambini dovevano andare, pertanto sarebbero andati. Non volle nemmeno sentir parlare delle due possibili alternative. L'istruzione privata in casa, opera di un istitutore abilitato da apposito diploma, oppure la frequenza presso la scuola del paese. In quel periodo, infatti, erano sorti degli screzi di natura personale con il direttore della scuola, che, con una caparbietà non poco indisponente, si rifiutava di riconoscere di essere uno Schafskopf. Mentre Herr Dremmel riteneva, e glielo spiegò pazientemente, che chi come lui si trovasse dalla nascita nella condizione di Schafskopf doveva accettare la cosa in modo franco e diretto e non persistere ad atteggiarsi come se non lo fosse. Per quanto riguardava poi la presenza di un istitutore in casa, non era nemmeno possibile prenderla in considerazione per via della mancanza di spazio. «C'è sempre il laboratorio?» esordì Ingeborg, non poco avventatamente. ritenendo che qualsiasi soluzione sarebbe stata migliore dell'allontanamento dei suoi bambini. Il lago? Solo per la notte, spiegò con precipitazione, solo per dormirci, capisci? Non ci sarebbe nessun bisogno di occuparlo durante il giorno. Ingeborg, iniziò Herr Dremmel, poi ripensandoci si limitò ad allungare la tazza per avere dell'altro tè. Le donne, con quella loro incapacità di ordinare secondo il giusto criterio i valori fondamentali della vita, erano davvero da compiangere, pensò. Fu così che i bambini vennero mandati alla scuola di Moek. Avrebbero trascorso la settimana presso la nonna per tornare a casa nelle domeniche di bel tempo e di disponibilità della carrozza. Ingeborg stentava a credere a uno svuotamento così improvviso della sua vita. Amava Robert Letedditti con una tenerezza struggente e speciale, venata dal rimorso e da un appassionato desiderio di proteggerli. Si trattava di quel genere di sentimento intenso, febbrile, provato da chi deve provvedere da solo a soddisfare tutto il proprio fabbisogno d'amore. Dopo l'esperienza del passato inverno, ora Ingeborg si chiedeva se fosse davvero l'istruzione ciò di cui i suoi figli avevano più bisogno. Forse non era tanto l'andare a scuola quel che mancava loro, ma piuttosto riuscire a scorazzare in libertà, abbandonarsi ai loro istinti fanciulleschi. Sapeva quanto sarebbe stato difficile indurli a lasciare andare, ma era del parere che se li avesse avuti con sé ancora per un po' e opportunamente emendato il programma educativo, purgandolo di troppa scienza e inserendo una maggiore quantità di attività più turbolente, alla fine sarebbe riusciti a portarli dalla sua.